Daylight saved me on my head. Like I've had enough of all the changes I've been through lately. Daylight saved me again, 'cause I feel like giving up on all the places I've been to lately. Together. Siamo su 103.1 per scoprire il lato più romantico di Vincenzo Piro, che è qui con noi. Ciao e che ci sta raccontando le sue giornate di straordinaria sopravvivenza. Sì, effettivamente si parla proprio di sopravvivenza in questi casi, e a volte la musica aiuta proprio a fare questo. E infatti mi dicevi che riuscite a lavoro ad ascoltare un po' di musica, però deve essere assolutamente solo musica. Solo musica, perché purtroppo siamo fatti così, quando ci concentriamo non riusciamo a fare troppe cose insieme, e quindi capita che mentre uno parla si ritrova a scrivere quello che sta dicendo lo speaker radiofonico. E è una maledizione, abbiamo capito che non è fattibile. No, cosa buona, perché evidentemente, giustamente uno sta scrivendo una parte legale o comunque dei concetti importanti. Sottoscritto si parla del jazz. Città Fuggico. Non va bene, assolutamente. E come dicevamo, oggi venerdì sicuramente siamo alle porte del weekend. Come anche scritto sulla pagina Facebook di Chi fa da sé fa per te, che vi invito tutti ovviamente a cliccare mi piace, mi raccomando, così questi messaggi subliminali che poi metteremo anche in sottofondo. E siamo davanti a un weekend, a una porta forgiata dal fuoco di mille venti, così che sciolga tutta la neve. Sì, ancora c'è qualche chiazza qua di neve, togliamola, facciamo sciogliere caldo, tutto. Certo. E allora, per esempio, io ho una passione per un artista che è recente, ho visto che questa sera è in concerto a Parma e sono accorta un po' in ritardo, in effetti, perché giustamente uno dovrebbe prenderli un po' prima i biglietti, però magari ce n'è ancora qualcuno disponibile. E sto parlando di Michael Kiwanuka, che è stato un po' dichiarato e considerato il figlio illegittimo di G. Scott Heron, che non so se tu conosci. Onestamente no, ma... Però se dico Atoll... Okay, sì, ci sono. G. Scott Heron, elegante, malinconico, e Michael, devo dire che lo ricorda molto, ha una musicalità che con l'album Love and Hate abbraccia sicuramente il corpo e la mente. Può essere un po' mainstream, però gli si abbona tutto perché ha un carattere così nobile, onesto, emotivo, e canzone dopo canzone gli conferisce al musicista inglese, che sicuramente tu poi andrai a tradurre tutti i nostri brani per poter capire di che cosa narra, e fa davvero della musica la sua apertura più grande. Calma l'ormone. Ah, dici che ho detto troppo? Calma l'ormone. Ah, ok, mi sono lanciato un po' troppo. Un po' troppo. Va bene, allora facciamo che invece di raccontarlo ve lo faccio ascoltare. Va bene. I've been sold all my lies. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. Feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost everything I had, but I'm not. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I've been low and I've been high. I've been so. Si balla qui nei studi di Radio Città Fujiko. Voi non ci vedete, ma noi balliamo. Noi balliamo, esatto. E tra l'altro abbiamo anche imparato velocemente il testo, perché insomma è molto immediato. E I'm a black man in a white world. Esatto, I'm vedi. Adesso magari dovremmo oscurirti un po' per essere più convincente, però sicuramente sì. E dicevamo appunto che tra le tue tante passioni c'è anche il canto. Sì, mi piace, appunto, parlando di Neffa, l'ho scelto proprio perché mi piace da morire canticchiare quella canzone. Quindi, insomma, già ti vediamo negli angoli di casa, così, nascosto. Sì, giusto, o in macchina, appunto, si canticchia. Deve quando uno si gira al finestrino che vede quello dall'altra parte in macchina che con fa le facce strane, le facce più strane del mondo, io presente, alzo la mano. cambiamo discorso, parliamo di eventi, perché abbiamo detto che è un weekend caldo, che ha sciolto tutta la neve. È un peccato stare a casa. Esatto, e ritorniamo al testo, quindi in questo senso ci avviciniamo al fumetto. Tu hai una passione sul fumetto. Mi piace un sacco, qualunque medium ci sia per comunicare, a me piace. Il fumetto è quello più avvolgente, immediato che ci possa essere. Basta un lampo in un disegno e il testo che c'è accanto quasi non serve, perché sono le espressioni che ti parlano al cuore. È una doppia comunicazione, doppia, visiva e letteraria. E dopo 10 anni ritorna Bilbo il Bull. È il festival del fumetto, che quest'anno però cambia pelle e durerà un pochino di meno, quindi la prossima settimana dal 24 al 26 novembre. Ah, abbiamo una concentrazione, una densità per dare nuova vita e nuova linfa al festival. Abbiamo tante mostre, tra cui una dedicata a Mattotti e anche un progetto John Berger, e una scelta anche coraggiosa, perché è stato l'anno scorso un grande boom del festival, ma anche coerente, perché si sono voluti concentrare sul valore culturale e sociale di questo successo, e quindi non solo termini di diffusione per farsi conoscere, ma andiamo giusto anche al concetto e al valore dei tanti fumettisti che, insomma, chiaro, negli anni si sono fatti valere. Poi in questo momento, appunto, sappiamo che mostra c'è di fumettisti qua a Bologna. Ah, esatto, tra l'altro c'è un evento particolare stasera. Sì, c'è un evento che purtroppo siamo arrivati lunghi perché è già tutto pieno. Ah sì, c'è, e qual questo è? Happening a Palazzo Pallavicini che riguarda Manara. Ah, è che vero, non possiamo bellissimo dimenticarlo. È un fumettista, è un disegnatore, illustratore, chi più ne ha più ne metta. Parla direttamente a tutti i livelli di noi uomini, ma anche delle donne. Le sue è trasversale. E stasera c'era l'evento a Palazzo? C'era a Palazzo Pallavicini, e c'è appunto questo evento in cui è possibile esplorare Palazzo Pallavicini, che è molto molto bello, è una dimora storica. Molto, sì. E c'è la possibilità alla fine della visita, quindi visitare anche la mostra di Manara, e c'è un brindisi di fine serata. La prossima data è il 1 dicembre. Quindi siamo in tempo per replicare. Siete in tempo per replicare. Poi, insomma, quando si parla di bere, noi siamo disponibili. Io sono prontissimo. Anche tu sei molto pronto. Sì, guarda, sono già sull'attente. Sei già sull'attente, anche perché ormai si avvicina anche l'ora di pranzo. Quindi, se vogliamo fare poi un aperitivo, siamo pronti. Sarebbe il buono. Quindi, insomma, buono. Come dice Willie Hutch, do what you wanna do. Cioè, fai un po' quello che ti pare. Eccomi, panino. Back, back, back, for a little. della Motown a scaldarci questo venerdì mattina con le ultime tracce di neve siamo ancora carichi per strada. Ma noi siamo carichi, il weekend che ci attende ormai è alle porte e purtroppo anche la fine della nostra puntata che è volata. Praticamente sì, intanto voi avrete preso pure qualcosa da mangiare come vi avevamo invitato a fare. Esatto. Noi ci avviamo. Noi ci avviamo a questo punto. E vi ricordiamo ovviamente che tramite la pagina Facebook potete poi contattare Vincenzo perché vi potrà dare utili consigli e informazioni sulle traduzioni, se avete bisogno di anche avere delle informazioni di giapponese, perché può capitare uno sta appunto facendo qualcosa, dice ma chissà come si dice in giapponese questo, uno chiama Vincenzo e Vincenzo risponde. Chiama Vincenzo. Voi ovviamente rimanete sui 103.1 perché fra poco inizia Jazz Live con Alfredo Pasquali, William Piana e anche Valeria Sacco. Noi ovviamente ci risentiamo la prossima settimana sempre sui 103.1. Bravissimo. I'm happy as I can be. I've learned to love and to live. Devil may care. No cares or woes. Whatever comes later goes. That's how I'll take and I'll give. Devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can't hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today, let him come tomorrow with me. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I live and I'll die. Devil may care. That's how I'll take and I'll give. Devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can't hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today, let come tomorrow. May. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care.